Come sta? Ah, bene. Bene, tutto a posto. A posto. La mixtape? La mixtape è andata, no? Finita. Non dobbiamo fare altro? No, dai, ma che altro? C'è mica voglia. No, zero altro. Zero altro. Ma che parli a fare l'altro? Cioè, ti rendi conto? Cioè, siamo qua che dobbiamo fare l'altro. Cioè, ci hanno mandato di là a fare l'altro, dicono. Beh, dai, allora va bene così. Sì, finita, finisce così, con Seba, bella storia, Seba. Siamo Wanda numero uno. È il capo. Il capo assoluto. Il capo di capo. Qua c'è uno stile infinito. Original MC Cry. Ma già meno di Seba. No, ma non bisogna dirlo. Perché se lo diciamo, dopo si offende. No, ma la... com'è stata la storia positiva con tutta la banda? The Zolandi Express? Ma sì, abbastanza. Pigero un po' col cazzo. Alla vecchia, proprio. Ma lui mi deve sopportare tutti, mica facile. Quindi? Quindi c'è qualcosa di rame, proprio. Hai visto? C'è anche roba di rame. C'hai cosa di rame? C'è la super vecchia qua, basta boy. Quindi cosa vuoi fare? Quindi niente altro, basta, finisce così, ciao. Ciao a tutti, bella lì, The Zolandi Express, Original Gun Clip. MC Cry, Super Boom Champ.